Ma io sto calmo, ma io sto calmo, è che io ti ascolto tutte le sere e a volte io faccio il camionista, se ti avrei mezzo alle mani a polpette ti farei a te, tu hai curato il becchino da parenzo, eh? La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cosa serve in quella piazza il 4 di luglio? Servono dei superuomini. Lo diceva Nietzsche. Superomismo. I superuomini, lo sapete cosa sono i superuomini? Cioè, il superuomo è quello che passa da una forma di nichilismo attivo, passivo, al nichilismo attivo. Il nichilismo passivo è quello che vivete voi coglioni italiani oggi. Tutte queste persone, io oggi ero annichilito a vedere il video a Livorno di un extracomunitario che bruciava il proprio gatto per mangiarlo. Ma voi dite, c'è la fame? No, perché aveva le sigarette, aveva il vino, e quindi è la mentalità nostra di italiani che non può essere integrata con questa di questi extracomunitari. Devono tornare tutti a casa loro, tutte le persone che hanno una cultura, un'identità diversa dalla nostra, se ne devono andare a fanculo fuori da questo paese. Paese, paese. Non possiamo integrare chi mangia i gatti, non possiamo integrare i cinesi che mangiano i topi e i pipistrelli, non possiamo integrare in una società come la nostra i terroristi islamici che fanno sposare le bambine di 7 anni a uomini di 65. Dobbiamo riprenderci l'identità nazionale, dobbiamo cacciare tutti i maghrebini, tutti gli islamici, tutti i portatori di culture diverse dalla nostra Italia e rivendicare il senso nazionale, dare lavoro solo agli italiani, dare case popolari solo agli italiani e integrare solo le comunità bianche e cristiane che con noi possono avere un comune sentire. Sentire, sentire. Questo è un razzismo, questo è un razzismo. Lei si sta sbagliando. Ne parleremo stasera. Onda Popolare è il movimento degli italiani che vuole riportare le lancette del tempo indietro, prima dell'avvento di questa merda di euro, prima dell'avvento di questa merda dell'Europa. Noi distruggeremo l'Europa con tempo, col tempo. Ora siamo in pochi, ma poi la gente ci capirà. Vabbè, adesso vi mando a fare in culo. Se nullo, quel coglione di Cruciani, quel forcione di Forciarenzo, e tu ce la compri con la Longoni coglione, Ramelli, ciucciami gli uccelli, e anche quelle, il coso, lo stupratore di Boston, Poli. Affanculo, ragazzi. Cosa? Dopo quello che stanno combinando in Calabria, dopo quello che stanno combinando alcuni sindaci giù della Locride, che dicono che al nord impazza, in particolare in Veneto, mostrando le immagini delle spiagge venete, impazza l'inquinamento, la morte, il Covid, mentre giù sarebbe l'Eden, sopra non c'è distanziamento sociale, a nord invece giù sì. Dopo quello che stanno combinando, io dico che bisognerebbe boicottare quei luoghi. Fossi un sindaco del Veneto, fossi il governatore, direi boicottare. Io dico viva Jesolo, viva, che ne so, Sottomarina, viva le spiagge del Veneto, non saranno meravigliose rispetto agli anfratti, e abbasso quelle calabresi, in particolare di quei signori che stanno facendo questa pubblicità incredibile. Ma l'Italia è un paese unico, è arrivato Mister Banalità, certo, l'Italia è un paese unico, grazie al cazzo, unico, ma è una vergogna, dal sud. Venite in vacanza, tornare, da noi, a nord ci si ammala, al cielo, lo dicono loro, al cielo nordismo, nordismo, dai, a cielo duro al nord, ce lo moscio al sud. Ma che è Roma ladrona, ma questo lo stanno facendo in Calabria, vecchia, ma lo stanno facendo in Calabria dei tuoi ex datori di lavoro, ormai sono diventati sovranisti, leghisti. A me che me ne frega dei leghisti, ma che me ne frega a me, ma che me ne frega a me, perché devi fare il più leghista dei leghisti, dai. Io sto dicendo, dopo lo spot dei signori della Locride in Calabria che dicono hanno fatto quello che il nord ha fatto purtroppo per tanti anni, questa campagna denigratoria del sud. Ma e che ora il sud che vive uno spot, un periodo fai, uno spot pubblicitario fai. Beh, hanno dicendo fatto al nord si muore, venite sgangherato, qui al nord ci si un po' sgangherato, ma rispondendo con la stessa moneta con la quale purtroppo ma in passato cazzate, si faceva campagna contro il sud. Sentiamo Zaia, va, che è incazzato nero, signor Zaia. Io ho visto quello spot, perché immagino si parli da spot, penso alla disperazione a volte di brutti segnali, e spero per loro che il bilancio di fine stagione sia buono, ottimo, perché se non sarà così saranno bocciati tutti. È un video che comunque discredita dei territori, cioè i nostri, offende i nostri territori, è un video che offende i nostri operatori, è un video che offende i veneti. È un video che, se hai il coraggio di farlo, dovresti avere anche il coraggio di chiedere l'autonomia e dimostrare quanto bravo sei a gestire i tuoi territori. Perché se quelle spiagge sono vuote, c'è anche un motivo per cui sono vuote. Perché sono talmente belle e talmente vuote che non si spiega. Fare uno spot nel quale si dice che in Veneto si muore per colpa dell'inquinamento, si fanno vedere le ciminiere, che non so dove, neanche dove le abbiamo fotografate, dar l'idea di un posto inquinato sia da un punto di vista ambientale che da un punto di vista sanitario, vabbè, allora io mi chiedo per quale motivo molti cittadini di quella regione vengono a curarsi qui da noi. Via Monterosa 91 20 149 Milano, eccoci qui, grazie. In collegamento dagli studi della 7, David Parenzo, eccolo qua. No, buonasera, ma non sono gli studi. Ma dove sono gli studi? È uguale, chi se ne frega? No, non è uguale. Ma ce ne sbattiamo i coglioni, dai. Un ufficio attrezzatissimo. Sì, un ufficio attrezzatissimo. Ragazzi, comunque è una vergogna. Quello che è successo è una vergogna, diciamo la verità. È una vergogna, e capiremo dopo chi è l'ideatore di questo progetto. Lo spot sgangherato. Lo spot sgangherato. È una vergogna, punto e basta, dai, su, ragazzi. È uno spot sgangherato. Ma non si può dire al nord si muore, venite giù, dai, ma che cazzo ma certo, è, dai, perché su. L'Italia è unica, bisogna mandare un messaggio unico. Mamma sul mia, turismo. Ma che cazzo sei diventato? Questo, ma che sei, il ministro questo della propaganda? Non bisogna, ma che vuol dire? Uno, ma che una sei regione diventato? Contro l'altra, si cresce fammi insieme, sentire Zangrillo, questo ma vai è a cagare, tema. Fammi sentire Zangrillo, questo dai. È il tema, sì. Non uno contro stai l'altro. Stai zitto, ma rotti i coglioni già. Non esiste. Quando lei sente dire c'è. Che a settembre tornerà e sarà peggiore, potrebbe fare diciamo più morti di quanti non abbia fatto la spagnola nel 1918. Vai, vate. La ritiene una previsione? Mi indigno. Ecco, ma possibile Bravo. Oppure mi no? Mi indigno quando sento queste cose. Ma ha ragione lui, basta con queste cazzate di previsioni, settembre, ottobre, novembre, dicembre, quello come che basta? È. Basta con ma le previsioni visto cosa inutili. Ma succede negli Stati Uniti? No, ma che c'entra con ottobre, con settembre, con novembre? No, cosa ora, c'entra? Negli Stati Uniti non hanno ancora capito se è la seconda ondata o se è ancora papà. La prima. E allora, se non negli hanno Stati capito, Uniti, chi se ne frega? Appunto. Eh beh, appunto, bisogna stare attenti. Allora, ha detto nell'ordine, bravo, ragazzi, 18. Proprio, ma io ho capito, devi fare la marchetta attimo, Zangrillo. Fai la marchetta giù, Zangrillo, giù, va 18 benissimo. E 43, ha detto due banalità fino adesso. Una, bisogna stare attenti, l'Italia è unita. Le due banalità della serata, subito, 18 e 43. Marchetta Zangrillo. Vai. Zangrillo contro Pappalardo, vai. Marchetta, vai, marchetta cagare, Zangrillo vai. 3. Ma non dire cazzate. Marchetta. Siamo al paleolitico dell'evoluzione cerebrale, quindi purtroppo quindi bisogna prendere le distanze. Purtroppo non sono stupito, la scienza è un'altra cosa. Pappalardo è il paleolitico dell'evoluzione cerebrale, su questo sarei d'accordo. Poi Zangrillo contro Crisanti, sentiamo, vai. Ma guarda, io penso che questo senso di euforia ci induce necessariamente ad abbassare la guardia e io penso che il professor Zangrillo, di cui ho grandissima stima, penso fra 2 o 3 mesi non vorrei che si pentisse di aver in qualche modo indotto a comportamenti diciamo meno coerenti, meno sicuri, col meno pericolo corretti. Che abbiamo passato, meno sicuri, ecco, io penso. Allora, forse Crisanti non ha capito una cosa. Bravo. Crisanti non ha capito una cosa, che in Italia ormai se non ha, cioè, non so quanto circoli per strada, quanto vada per strada, in Italia ormai è liberi tutti. Cioè in Italia ormai, a parte alcune precauzioni dentro i locali, sì, ma non succede niente, per adesso non succede nulla, nulla, non, ci sono, non c'è gente ricoverata, per cui ragazzi è così la storia, la gente ha voglia di vivere, non di essere imprigionata e di essere tutti terrorizzata. Ma che banalità, dai, è, tutti su. Hanno voglia di vivere, è evidente, dai, è ovvio, no? Basta, tutti hanno voglia di vivere. Basta, basta. Allora, secondo il rappresentante dei 5 Stelle di Stefano, Salvini a Mondragone se l'è andata a cercare, si chiama Di Stefano, vai. Se anche Salvini, anziché stare sempre in piazza, nei posti dove c'è sempre questo tipo di situazione, perché se la va a cercare quella situazione, non la risposta violenta, ci mancherebbe. Fosse ogni tanto in Senato, visto che ha l'11% di presenze, forse tutto questo non accadrebbe. Poi dice che la Lega è alleata con partiti nazisti. Con partiti nazisti. Partiti nazisti. Io amo parlare dell'Italia, se dovessi parlare delle alleanze della Lega in Europa, no, parleremmo di partiti nazisti praticamente, quindi non scendiamo su questo campo che è veramente squallido. Scusi. Crucia, Catanzaro, i suoi abitanti ti vanno un tuo culo. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Amvedia, oh! Digli alla signora che venga qua a Vicenza da noi, qua si mangiano pure la coda del gatto. Io non me lo mangio, perché anche mi fa, a me dispiace anche. Ma qua a Vicenza si mangiano pure le orecchie del gatto. Agrugiani, la verità è che questi in questo paese fanno come cazzo gli pare, perché tanto poi c'è sta un Parenzo che è pronto a difenderli, è pronto a giustificarli. Allora sai che vi dico, a Parenzo, vattene a fanculo te e loro. Allora, ti ricordi, David, nei giorni scorsi c'è un video che è stato diffuso, video, immagini, di due signori, due avvocati in America che impugnavano le armi al passaggio della protesta pacifica, tra virgolette, del corteo a favore della gente di colore a St. Louis. In realtà cosa era successo? Cioè, era successo che i manifestanti avevano sfondato il cancello di questi signori, cioè avevano invaso la proprietà privata di questi signori dove viveva questa coppia, e hanno iniziato a urlare poi slogan minacciosi. A quel punto questi due signori, che certo non sono, diciamo, i rappresentanti del pacifismo mondiale, avevano dei fucili, delle pistole, immagino in maniera regolare. È già questo, è ho già capito, questo, ma questi sono gli Stati Uniti, che cazzo vuol dire? Appunto, non è che erano illegali. Non cosa era illegale. Che ho sempre contestato. Ho capito, avrei pure contestato. La diffusione ma... delle armi, d'accordo, il tema comunque della diffusione delle armi ma in quel paese. Ma non sono due pazzi, evidentemente, non sono due che hanno sparato. Si sono messi a imbracciare il fucile e l'altra la pistola per difendere la proprietà privata, semplicemente perché questi avevano sfasciato il cancello, rotto i cogli. Invece hanno subito passati come i razzisti di San Luis. Prima cosa. Seconda cosa, altra follia di queste ore: gli scacchi sono razzisti, il bianco muove per primo. Cioè qualcuno vuole cambiare l'ordine delle cose, vuole cambiare questa cosa qui negli scacchi, per cui il bianco che muove per primo la cosa è considerata razzista. Questo per non parlare della vicenda dell'Oreal, naturalmente, follia, no? Questa è una dello follia. Sbiancamento, delle creme per lo sbiancamento che dovrebbero cambiare nome, naturalmente non vogliono ritirare i prodotti, ma devono cambiare nome perché non lo sbiancamento, diciamo, per rendere la pelle più bianca, diciamo, no? Ragazzi, anche Michael Jackson lo fece. Dai, su, perché è una cosa razzista e allora bisogna cambiare il nome. Questa è una sciocchezza. Il nome del sciocchezza. Prodotto. Dai. Sciocchezza. Spadalino, vogliamo sentire Spadalino sui sacchetti a perdere, no, che brucia il gattino? Dai, no, fammi sentire Spadalino, no, un giorno, no, dai, no, fammi sentire, no, lui, ti prego, dai. C'è un signore che brucia un gattino, sì, non sto visto. Scherzando, visto, io prenderei sì. questo sacchetto a perdere, sì. straniero, lo butterei a marcire in prigione senza alcuna pietà. Ringrazio quella signora che l'ha attaccato là. Ma come puoi tu bruciare un gattino perché te lo devi mangiare? Quindi in base al ragionamento bondriniano, noi dovremmo prendere come modello, come stile di vita, quello che ci offrono sti quattro sbandati sacchettoni a perdere. Ma ditemi voi se è permesso. Ve lo giuro davanti a Dio, non volevo alzare no, la voce. Davanti a Dio no, ti prego. Vi prego di scusarmi. Queste eresie, perché tu non puoi, non devi bruciare un gattino e poi rispondere malamente a quella signora. Ma non c'era nessuno che lo stendeva. Ma io ti voglio far ascoltare Meluzzi. Meluzzi dei giorni scorsi, in cui, quando dice che dietro l'informazione sulla pandemia ci sono gli interessi della Big Pharma, dietro ci sono Soros, Bill Gates e Rothschild. Ma Soros non c'entra niente Soros, con la Big Pharma. Bill lui. Gates e Rothschild. Vai con Meluzzi, vai con una sventagliata meluzziana, vai. L'informazione non avrebbe degli interessi in sé, ma dietro al mondo dell'informazione, dietro al mondo del mainstream, dietro al mondo dei giornalisti più o meno embedded, come dite voi, ci sono grandi interessi, quelli della Big Pharma, quelli dei possibili fabbricanti di vaccini, quelli di chi hanno pensato di utilizzare per ragioni geopolitiche e politiche questa pandemia, prima per cercare di bloccare la rielezione di Trump negli Stati Uniti, di danneggiare il processo della Brexit in Inghilterra. Io credo che alla fine le manine siano sempre le stesse e siano quelle di un deep state profondo di taglio dem e con guida saldamente nelle mani di una certa finanza internazionale, per capirci quella dei Rothschild, dei Soros, dei Rockefeller, dei Bill Gates, e che a parte l'interesse per i vaccini, per i microchip, per tutto il resto, hanno bisogno di un mondo depauperato, spaventato, sottomesso, impoverito, in cui i loro titoli tossici, che sono buoni per essere messi appesi vicino alla tazza del water, e vengano riassorbiti da un grande impoverimento generalizzato. Dietro ci sono Soros, Bill Gates ormai. E Rothschild, disse il Pope Meluzzi. Noi. Comunque non dici niente, in due giorni su Berlusconi non hai detto un cazzo in due giorni, In due giorni. Ma guarda, quella su Berlusconi vicenda non hai parlare, detto un cazzo. No, non ne voglio è parlare. È una vicenda molto ma curiosa ma quella in lì. In due eh? Giorni però. Su Berlusconi, sulle rivelazioni dei magistrati, uno morto, beh, peraltro, aspetta, su però. Questi audio esatto, diffusi, aspetta, su aspetta. Questi audio diffusi in cui se ne vuoi c'è parlare, un chiaro guarda. Complotto, a me non è che lo devi dire perché già lo sapevo. Ah, per te c'è un complotto. Ma è chiaro, ragazzi, non è che Berlusconi può pensare che sia stato condannato così in punta di legge. È dimenti stato condannato perché gli so volevano fare il culo. Perché gli dico volevano fare il culo. Ci sono dei, ragazzi, su queste cose che, ci sono dei punti che, oscuri. Il primo punto no, oscuro è no. che c'è uno dei magistrati. No, ascoltami se vuoi. Marco, uno no, dei magistrati tardi, dopo, che dopo, ha scritto dopo. La c'è sentenza. Marco da che parla con Berlusconi e dice che non avrebbe voluto scriverla. E vabbè, d'accordo. Marco da Como. Tu non la racconti mai tutta. Tu non la racconti mai tutta la storia. Ne prendi sempre un pezzettino. Sì, Marco. Che ci imbavagliano ancora per sei l'unico a credere che Berlusconi sia stato condannato dalla magistratura no, in punta di legge. Non ho, non ho detto questo. Marco ho detto da che Como, se vedi dai. Quella storia ci sono molte cose particolari. Grazie molte. Al cazzo, direbbe qualcuno. Marco e da tu Como. Non le dici. E beh, allora Marco ne parliamo. Da Como. Però. Marco da Como, no, non ne parliamo. Il conduttore ma. Di Radio e allora Tanzania diciamo solo libera. Che è un complotto e vaffanculo. Beh, quello mi pare vabbè, abbastanza evidente che sia stato condannato. Ma perché non dici come mai salta fuori adesso la registrazione? E chi l'ha Marco, registrato? Vai a porta a porta. No, vado a te. Marco, dimmi. Il conduttore di Radio Zanzania Libera non si accorge che in Lombardia ancora per 15 giorni dobbiamo andare in giro con la museruola. Purtroppo sì, certo. Purtroppo sì. Decisione sbagliata di Fontana. Decisione sbagliata comunque di Fontana. Posso dirti una cosa, Marco? Marco, posso dirti una cosa? Se uno va in giro, però, se uno va in giro senza mascherina, ti assicuro che non fanno avanti non, indietro con la Svizzera. Non ti si incula nessuno. Non ti si tutti al Cristo, mi lasci parlare o no? Mi lasci parlare o no? Se tu vai in giro senza mascherina oggi in pubblico, in giro, diciamo, senza in culo a nessuno. Esatto, non è che c'è un vigile che ti ferma e ti dice mettiti la mascherina. Comunque ti ho detto Radio Zanzania Libera perché faccio il decennale quest'anno. Di che? Di ascolto della Zanzara. E allora? Sei partito, mi sembra strano che mi ma non me ne frega così, a me non me ne frega un cazzo, ma no, non sono loro. Salviniano, sono cruciagnano, non me ne frega un cazzo che tu ascolti da 10 anni. Che fine avrà fatto Franco da Frosinone? Mi hai rotto i coglioni. Franco da Frosinone, vai. Franco, dimmi. Sei pronto? Dimmi, Franco, dimmi. No, niente, per i gatti, io sono stato allevato con i gatti, Luciani, sono nato nel 43 e mi ricordo mia madre come la e che ce ne frega madre. A noi? Come li cucinava, sta parlando dei gatti. Ma chi se ne frega? Che sei scandalizzate. E dunque, scandalizzate questi gatti, che sto a dire che io mi sono parato pure che il maschio c'ha la capoccia grossa e la femmina quella piccola. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Questo è interessante. Vuoi sapere come li cucinava mia madre i gatti? Cucinava i gatti perché ci ho campato tutta la mia adolescenza con i gatti. Qual è lo scandalo? Beh, io preferisco mangiare un gatto che un orso. Ma no, guarda, io preferisco mangiare l'orso tutta la vita. Tu, io preferisco mangiare il gatto. L'orso, io preferisco mangiare l'orso. Che cazzo serve il gatto? Scusa, ma che vuol dire che cazzo serve il gatto? Il gatto serve. Ma una cosa, insomma, è un animale da compagnia. È un animale da compagnia, per carità. Poi per me, se consentono, no, se ammettono, senti, che c'è? Se c'è un animale egoista, io guarda i gatti, poi specialmente mi trovavo in un giardino dentro. Ma tu li mangi ancora adesso? Li mangi ancora adesso? No, che vuol dire? Anzi, ho paura a ordinare il coniglio. E perché? Sì, e la perché solita cazzata. Mi danno un gatto. Fermo là. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. Mi sei pagato. Io voglio sapere da quel bugiardo di Conte, perché l'unico bugiardo è lui con la sua compagnia bella che è Di Maio, Zingaretti, perché al governo ci sono loro. Tappi! Sono Lorenzo da Nettuno e anche io mi scaccolo fermo al semaforo. I love my radio. Quando sono in ufficio da solo ne approfitto sempre per un bel peto che mi piace tanto odorare. I love my radio. Sono Edoardo da Roma e amo leccare i piedi delle mie fidanzate durante l'amplesso. I love my radio. Sono Simone da Massa e anche a me fa cagare Catanzaro. I love my radio. Comunque mi stanno divertendo le telefonate di questa sera, devo essere sincero. Ragazzi, siamo qui, andiamo a Firenze. Filippo, vai. Buonasera. Vai Filippo, dimmi. Forza. No, io non ti saluto molto, ma non chiamo quasi mai, anzi, a dire la verità è la prima volta. Sì, bravo. Sì però bravo. Filippo, scusa, metti bene il telefono, altrimenti non sentiamo un cazzo. Francamente non sentiamo una fava e non credo che sia giusto nei tuoi confronti, nei confronti del tuo cervello, che non so se sia un cervello degno, non degno, non lo so. Mi sentite adesso? Adesso ti sentiamo l'immortacci tua, aggiungerei anche, cioè in maniera molto tranquilla, aggiungerei l'immortacci tua, perché molto all'inizio... Dimmi. No, l'immortacci sua, chiaramente. Dimmi. Ma ci mancherebbe. Io chiamavo per esprimere la vicinanza a David per l'ignoranza cui è sottoposto e esposto tutti i giorni in questo programma. Possiamo aggiungere anche questi grandissimi cazzi? Posso aggiungere questi grandissimi? Propongo anche la cessazione immediata del programma. Sì, ma proponi a chi? A chi la proponi? Bravo, la proponi a chi? A quale entità? A quale ente? A quale organismo? È il suo rimpiazzo con tuo cervello. Rimpiazzo. Storia contemporanea. Ma vai a cagare, Isacco da Luca. Quello vai. Potrebbe essere utile. Storia contemporanea molto utile. Sì, molto utile. all'università. Ciao, buonasera. Dimmi, Isacco. Come cazzo fa uno a chiamarsi Isacco? C'è una roba incredibile. È un nome biblico. Ma sì, bello. D'accordo, ma Isacco, dai. Ma Isacco, uno se, sì, ma se uno si chiama Isacco si fa cambiare nome, a un certo punto si può chiamare Isacco. Perché? Ma è un nome biblico, ma molto, carità, bello invece. Ho capito, è bello così a sentirsi, ma se uno si chiama, se io mi chiamassi Isacco, francamente me lo farei cambiare. Andrei là, andrei all'anagrafe, no, dico. Perché? Vabbè, se ti piace farti chiamare Isacco, chiamati Isacco, cosa vuoi che ti dica? Io andrei immediatamente a farmi radici. Cambiare. Sì, ma ci sono tutte le radici. Anche Ermenegildo ha una radice. Ma no, ma il significato del nome è meraviglioso, sì, in realtà, perché però, in ebraico vuol, sì, dire egli riderà. Certo, non c'è dubbio, non c'è, perché dubbio. Ricorda l'episodio biblico di quando Sara, Davide, rimase incinta, sì, un'età avanzata, sì, e lei rise quando l'angelo glielo annunciò. Ma nessuno, quindi è un nome molto bello, molto carico di significato. Ma nessuno dice che non è bello il nome. Anche, che ne so, Ermenegildo è un bel nome. Ermenegildo, ma no, Ermenegildo fa schifo. Bello, barocco, aulico, quello che vuoi, avrà sicuramente un grande significato, non lo so, basta andare sull'internet. Non è questo il punto, ma uno che non si mi chiama pare un Isacco, non mi piace come nome. Come cazzo lo chiami un amico riderà, Isacco? Sì, riderà. Ma un amico che si chiama Isacco, come lo chiami nella vita quotidiana? Isacco? Ma è uguale a Giuseppe? È da. Uguale a Yosef, Giuseppe è uguale. Comunque, vabbè. Isaac nel mondo. Sì, Isaac, vabbè, sì. Il nonno di un amico mio, sì, Alessandro Milan, che mi scrive, dice: mio nonno si chiama Ermenegildo. Pazienza, Ermenegildo infatti, no, è il nonno, il nonno, va bene, però è, ecco, appunto, mi ha appena scritto mio nonno, si chiama, chiedo scusa, no, Ermenegildo è un bel nome, infatti c'era Ermenegildo Zegna, Ermenegildo Milan. Ho capito, Milan. Un nome nel 1800, ottimo, nel 1930, no, no, nel 1920, Ermenegildo, ma Milan, fa cagare, fa cagare. Zegna. Ma perché? Ma perché oggi mai? Se chiami perché un mai? Bambino Ermenegildo ti dovrebbe fare causa quando diventa adulto, anche Isacco. Però stanno tornando i nomi antichi, ad esempio. Ma non stanno, è vero, tornando. Ma allora ragazzi, se uno, se oggi a un bambino mettono il nome Isacco Ermenegildo, questo qua, maggiorenne, ha il diritto di fare causa ai genitori per avere dato un nome così assurdo. Chiaro? Isacco, vai, dimmi, che volevi dire? No, io volevo solo parlare col caro David e dirgli che sono, per quanto io possa apprezzarlo, sono rimasto abbastanza colpito in negativo, mi spiace dirlo. Ma da che ieri. Cosa? Dimmi, da che cosa? Da tutta la scena del gatto, addirittura... portarlo proprio a un discorso macchiettistico. Io ho un paio... In che senso? Scusa, sì, spiegami. Sì, cosa vuol dire macchiettistico? Infatti anche tutto il discorso di su che? Freccero. Ma quello è Freccero, che c'era? Quello è Freccero che voleva fare la diretta su Rai 1, che mi sembra essenziale per la mattina, certo. Del gatto arrostito, quello non mi sembra così strano. Freccero è un creativo. Freccero è un creativo. Sì, benissimo, però non è una cosa simpatica. Tu cioè, hai un ma chi ha detto che è simpatica? Chi ha detto? La solita... Non ho capito, Isacco, non ho capito bene. Cosa vuoi dire? Ma mi hai rotto i coglioni, Roberto da Milano. Mi hai rotto i coglioni, Italo da Milano. Anzi, Roberto, dimmi. Sì, c'è Cruciani. Dimmi. No, io volevo fare una domanda. Che lentezza, che palle, sto Isacco, dai. Volevo fare una domanda diretta a Parenzo. Sì. Eccomi, caro amico. Volevo capire perché se tutte le sere si deve lamentare della trasmissione. Ma questo è 10 anni che si lamenta, non è che tutte no, le sere. Ma dico, ma dieci anni, come si permette di sputarne il piatto che mangia? Dia le dimissioni e a quello casa. È bipolarismo, sì, no, cioè quello trattasi di bipolarismo. Volevo capire che idea ha lui. Quella io ho l'idea è nel piatto dove mangio, quella... non mi piace più. Ma mi io ho l'idea di questo chiamasi tutto, la doppia tutto, questo via. Che si chiama, sì, la doppia personalità, diciamo. Ad esempio io detesto gli ascoltatori, ma scusami, no, allora non detesto gli ascoltatori, lavoro. Io detesto lei cambia che chiama lavoro. Cioè, personalmente lavoro. Lei che telefona mi sta sui coglioni, posso dirlo? Ma io posso, cioè, mi dispiace, non vorrei. Lei che telefona, lei che anziché leggersi un bel libro, telefona. A me piacciono quelli che ascoltano. Magari vai all'attacco, Roberto. Non mollare no, i garretti, non mollarlo. Sono 10 anni che vi seguo. Io certe cose sono d'accordo, certe non sono d'accordo. Non capisco. Quelli che telefonano e si lamentano, cambia canale. Non ma capisco, sì, ma Parenzo, questo è un, anche questo è un altro discorso valido. Nello stesso piatto, sei cambiato perché Cruciani ha il suo stile da 10 anni a questa parte. Vai all'attacco, Roberto, vai all'attacco. Tranquillo, un bebè, adesso è diventato più aggressivo di Cruciani. Ottimo. Quando telefona qualcuno, fallo parlare, è educazione. Fermi tutti, Pancrazio, no, dalla provincia di Messina, qui non c'è educazione. Ecco un altro nome, Pancrazio. Qui non c'è educazione in questa trasmissione. Se qualcuno mi dice che in questa trasmissione c'è educazione, io mi incazzo. Pancrazio dalla provincia di Messina, educazione non esiste. Eccone in questa trasmissione. Eccone un altro, Pancrazio. Oh, finalmente, quando sento Pancrazio mi sento un'altra persona. Allora, ricordiamo, Pancrazio è praticamente un pezzo di merda, diciamolo in maniera molto chiara, è una testa di cazzo, è un ex legionario, è un ex legionario che dice di essere un cacciatore di rom insieme alle sue brave. Sostanzialmente, testa di cazzo sei tu. Su, sei, ma non, io non lo dico in senso negativo, sei però una testa di cazzo, questo anche Parenzo lo può totale, confermare. Cioè, totale, lo possiamo totale, dire assoluta, cioè, senza dubbio alcuno, senza possibilità, esatto. Non c'è neanche bisogno di una prova, non serve la prova, non serve la pistola fumante, esatto. questo non ascoltatore, questa persona che telefona in particolare è un coglione, esatto, non sì. c'è bisogno, sì, non c'è bisogno con te. Di nessuna presentazione in più, è un grandissimo coglione. Io aggiungo anche una testa e lo di dico cazzo. Con sì, ma aggiungo... internazionale che non ha nulla da fare con i piedi, palla di lardo. Ma che c'è? Quello che per te lesi al massimo l'arancino con i piedi. Però ti dico un chiattone. Sì, però tu tra l'altro non ti chiami Pancrazio, ti chiami Lucio in realtà, sì. Ti chiami Lucio come mio padre, purtroppo dalla provincia di Messina e va sei bene. Un'emerita testa di cazzo. Però va bene, io adoro le teste di cazzo. Meno male. Io adoro una cosa breve. Che vuoi dire, Lucio? Dimmi o Pancrazio, quello che ha arrostito il gatto. Sì. Lo stesso trattamento, sì. Uno spiedo nel culo e arrostito vivo. Sì, ma come si fa adesso tecnicamente, caro legionario, ex legionario, come si fa ad arrostire vivo un signore? È anche complicato. Qualche volta viene fatto in alcune tribù africane, veniva fatto. Hai mai mangiato una bistecca di negro? No, adesso una bistecca di negro non l'ho mai mangiato. Ti posso assicurare che è buonissima. Sì, ma adesso lo dici tu perché sulla base di che cosa? Non è che hai mai mangiato carne umana. Non credo che tu abbia mangiato carne umana. Questo non te lo posso dire. No, però non lo puoi dire. L'ho sentito dire da altri che l'hanno assaggiata. L'hai sentito dire, eccetera, eccetera. Io voglio ancora capire il modo in cui tu ammazzavi le persone quando facevi parte della legione straniera. Cioè, come ammazzare? Sì, con le armi. Ma la cosa più cruenta che hai fatto qual è durante la legione straniera? Raccontaci. Cioè, la cosa più cruenta che hai fatto quando eri legionario. La cosa più cruenta che lui ha fatto è essere al mondo, è la cosa in assoluto più cruenta che lui ha fatto nella sua vita, nascere, vivere, perché, questa è la cosa no, più ma cruenta. Perché in realtà Lucio barra Pancrazio della provincia di Messina, in realtà da Milazzo, è tutto detto quello amabilmente il coglione, è tutto il concentrato, sai come si dice negli atti notarili, negli atti quando si dice il sottoscritto è detto il locatario a un certo punto, no, quindi David sì. Parenzo nato, d'ora in poi il locatario, ecco, d'ora in poi il coglione Pancrazio da Messina, d'ora in, come nei contratti, d'ora in poi detto il coglione, nei contratti si mette il conduttore, il locatario, si mette d'ora in poi definito il conduttore. Comunque, caro amico mio, la cosa fondamentale è questa: tu, dalla provincia di Messina, eccetera, eccetera, ex legionario, sei sostanzialmente un razzista, diciamo la verità, sei razzista, anche un po' fascista. No, siamo tutti razzisti. Sì? Chi è? Tutti in che senso siamo tutti razzisti? Ma tutti chi? Ognuno ha delle etnie o delle persone che non sopporta. Ma che vuol mia dire? Moglie è vietnamita. No, io solo gli idioti non sopporto. Tua moglie è vietnamita, non sopporto i negri. Tua moglie è vietnamita e non sopporti i negri. Che vuol dire che non sopporti quindi, i negri? Scusa. Quindi non sono razzista perché ho sposato un orientale. Sì, ma che vuol dire che non sopporta i negri? Ma come fa a non sopportare i negri? Che vuol dire non sopporti i negri, tua moglie? Gli fanno schifo i negri. Gli fanno schifo i negri a tua moglie. Che famigliola interessante. Ma che bella famiglia dei nazisti questa qua. Cioè, l'ex legionario con la moglie vietnamita che non sopporta i negri. Vabbè, d'accordo. Per non parlare poi dei rom, ovviamente, tu cui si è dilungato più volte, naturalmente, no? Cioè, è evidente. Ma io contro i rom non avevo niente all'inizio. E poi che è successo invece? Poi quando ho fatto un furto in casa. E allora a quel punto li vuoi sterminare tutti? Tutti. Allora ho cominciato a dare la caccia. La caccia? Ma quale caccia? Non ci crede nessuno a questa cosa della caccia ai rom. Dai, su. Ma quale caccia? Pancrazio, la caccia no, perché saresti stato già denunziato se veramente tu e la tua bella, tu e le tue signore davate la caccia ai rom. No, fermo là. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta La Zanzara. Sono Sofia Siena e sono un amante del pelo. E baffanculo a chi hanno la patatina tutta rasata. I'm living on shattered faith, kinda likes to restrict your breath. Never been a better time. Sono Richard Benson e sto qui. Non vedo la lucetta rossa. Come mai? Qual è il tentativo di questo governo di bancarottieri delinquenti? È quello di infilarvi una supposta su per il culo lentamente, in modo che voi ve ne accorgiate quando la cosa è già accaduta. Se uno non ha studiato non può capire. Io mi appello a chi ha studiato, non a quelli che non hanno studiato, perché non ci possono arrivare. La terza media non permette il colloquio, perché uno che non riesce a capire la gravità della situazione continua a scrivere stronzate, deve riprendere i libri, ritornare a scuola e studiare. Lo studio è fondamentale, se uno è ignorante resta ignorante. Disse quello che considera sua eccellenza Benito Mussolini, praticamente un grande statista. È una guerra durissima. Da una parte c'è Satana, c'è il satanismo, addirittura c'è l'asservimento ai poteri del diavolo, che sono quelli che generano le scelte del governo ora. Satana e il satanismo. Vabbè, chi eravamo qua? Chi c'è? Italo, chi c'era? Enrico, chi c'è? Vabbè, Italo, vai, Italo, dimmi. Italo. Italo, buonasera, tutti i nomi oggi antichi, Che ne so, Italo, dimmi. Pure Italo Balbo c'è adesso. Dimmi. È dal 1861, data della colonizzazione. Il 1861 non ce la faccio, amico mio. Dal 1861, Bruciano, ascolta. Non ce la posso fare, 1861. Dal 1861, ti istruisca. Non ce la fa, questo è un altro neoborbonico. Non sono un neoborbonico. Sì, io non che sono vuoi? Un ma che vuoi, Italo? Che cosa vuoi? Ma che cosa vuoi? Non ho capito. Cosa vuoi? Sono 150 anni cosa? Che cosa? Di odio. Che ma tra chi sono odio? 150 anni di odio. E allora? Allora io mi pongo una domanda a te. E qual è come la domanda? Mai questo senso di ribellione verso la Calabria? Come mai? La ribellione verso la Calabria? Ma di che stai parlando? Sì, questa tua senso di rivoluzione, boicottiamo la Calabria. No, io ho detto una cosa, ma io non ho detto questo. 150 anni di politiche antimeridionali. Sì, vabbè, vai a fare in culo, non è questo il punto. Il punto non è questo, il punto è che ci sono alcuni sindaci che hanno commissionato una pubblicità Hai detto che vuoi boicottare il sud, scusa, hai ragione a indignarsi. Al sud, vedi? Nessuno deve boicottare niente. Io ho detto una cosa, di fronte a tu hai detto così all'inizio della trasmissione, boicottiamo le spiagge del sud. Come no? Beh, sei scemo, sei. Ho detto semplicemente. Tu questo hai detto. Ascolta. Ma siete due cretini tutti ma e due. C'è l'audio. Ma c'è l'audio. Ascoltiamo l'audio. C'è la moviola, c'è il VAR. Ho detto solo una cosa. Ho detto che di fronte a questa pubblicità vergognosa ideata da un signore che fra poco chiameremo. Bisogna boicottare il sud. No, bisogna boicottare quei paesi, quei comuni che hanno ideato questa pubblicità vergognosa nei confronti del nord. Io ho detto che non c'è da boicottare proprio niente invece. Assolutamente nulla. Meno non so che cazzo è la Locride. Quindi boicottare i comuni, quindi boicottare il sud, quei comuni lì della Locride, come cazzo si chiamano i comuni là dove hanno fatto quella pubblicità? Certo, quindi, non c'è dubbio. Adesso si fa vivo questo tuo senso di ribellione verso ma che ribellione, ma non rompere il cazzo. Io non giustifico. Vincenzo da Roma, mi hai rotto i coglioni. Vincenzo da Roma, dimmi. Non si sente un cazzo, si sente? Senti? Sì, un po' si sente, dimmi. Ok, dico, ti rendi conto perché l'Italia si trova in questo. No, non si sente una sega, amico mio. Claudia da Vicenza, vai. Dimmi. Pronti qua? Eccoci. Io in realtà ho chiamato per mandarvi a cagare in diretta e vedere cosa succedeva. Non succede nulla, amica mia, siamo abituati, puoi anche pisciarmi addosso, non c'è nessun problema. È normale. Non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema. Sono tante le persone che si fanno pisciare addosso. Sì, ma non è c'è. La rarità è fantastico. Assolutamente. Se tu vuoi, organizziamo un incontro privato e possiamo fare questo tipo di giochetto. Però il problema non è questo. Il problema è il motivo per cui tu. Ma il culo? Sì, anche volentieri, molto volentieri. Non c'è dubbio. Beh, basta incontrarsi, poi piacersi e poi uno può fare quello che vuole. Sono aperto a queste esperienze. Per esempio, il pissing, per esempio, il dito nel sedere. Ma non è questo il problema. Il problema è capire perché hai chiamato. Questo è il punto. No, per mandarvi a cagare in diretta perché sì, ma non è una novità, non è una novità, cioè non è una non hai vinto un cazzo perché sei un imbecille. Vincenzo da Padova, vai Vincenzo, dimmi. Ciao Cruciani, c'è sempre una valuta. Dimmi Vincenzo. Ascolta, mi volevo come fare mi fa godere quando liquido queste persone così. Vincenzo da Padova, vai, dimmi. ciao, sei sempre una lotta comunque. Io volevo solo parlare con Parenzo e dire di guerra, come si dice, come si chiama quello che sono passati 15 giorni. Sì. In Campania non c'è stata l'epidemia per i festeggiamenti. Ma infatti erano le critiche erano quei grandi coglioni. Sì, ma io non io ho detto semplicemente che poteva essere comunque una cosa rischiosa. Tu li hai chiamati irresponsabili, certo, perché non è che tutti quelli che non vanno ai concerti sono dei coglioni. Un cazzo. Io ad esempio vorrei andare tanto a un concerto, ma non ci posso andare purtroppo. Dai, ma quello ci organizza come prima, no? L'esplosione di gioia non si programma, dai, su. Perché non posso andare a un concerto di Vasco Rossi, ad esempio? Ma chi se ne frega, quello è un concerto programmato che in questo momento è proibito. Perché non posso andare al Cirque du Soleil? Ed è fallito. Ci sono aziende che sono fallite perché fanno spettacoli all'aperto come il Cirque du Soleil, e ci sono persone che non rispettano le regole. La gioia, appunto, la gioia per la vittoria non è programmata. Ha maggior ragione, esattamente questo. Ci sono settori industriali morti perché non si possono fare, pazienza, e persone che se ne approfittano. E tu dici pazienza, io dico di no. Pazienza, purtroppo, perché sono morti di posti di lavoro. Enrico, dimmi. Ecco, ciao ragazzi, no, sono d'accordo con il grande Cruciani su quanto riguarda la parte del turismo. Bisogna boicottare quelle spiagge, quei comuni della Calabria. Non bisogna boicottare e niente, i sindaci vanno con le, i comuni vanno commissariati come succede addirittura con la mafia. Sì, perché una cosa del genere, io mi vergogno per il popolo calabrese, mi dispiace per il popolo calabrese. Vabbè, ma adesso non esageriamo, per me hanno fatto una cazzata dicendo delle puttanate, una grande cazzata, e a me personalmente invito tutti i veneti a non andare in quei comuni perché è una vergogna, è una vergogna, è una vergogna. Ma cosa è una vergogna? Non ho capito cosa in particolare. Questa pubblicità io non ho capito, ma cos'è che ti ha dato fastidio? Cos'è che ti ha dato fastidio? Le ciminiere, le spiagge affollate, dire che lì si muore, eccetera, eccetera. Sì, perché io conosco anche degli infermieri che hanno combattuto il Covid. E qua in Veneto comunque l'ospitalità è al primo posto, le regole vengono rispettate e questi ci certo che le regole rispettate. Così, vabbè, come... Claudio da Roma, ho capito, Claudio da Roma, vai Claudio, dimmi. Pronto, buonasera. No, dimmi. Io stavo sentendo di Venezia, io ho un bruttissimo ricordo. Di che? Sono stato in viaggio di nozze. No, ma non sento un cazzo, c'è di nuovo Isacco dalla provincia di Milano, però che vuoi Isacco, non ho capito. Isacco è sempre collegato? No, Vincenzo da Roma, dai, forza. Ragazzi, è un altro no, Isacco? È un altro no, si sente o no? Non ho capito. Isacco non c'è, Claudio non c'è? Vai ragazzi, forza, via. White guy. Allora ragazzi, nei giorni scorsi vi ricordate il professore di Foggia? Nel bar del professore di Foggia, lo abbiamo detto, è andato Matteo Salvini. C'è gente che si è incazzata. C'è gente che si è incazzata. Per esempio, vecchi antifascisti dicono: no, non puoi invitare Salvini nel tuo bar, eccetera eccetera. Pronto? Professore? Buonasera, dite. Buonasera, senta, io mi chiamo Cosimo Falcetti Martelli. Io sono un vecchio partigiano dell'Associazione Partigiani. Ho fatto la Resistenza. Se non sbaglio, lei venerdì scorso ha accolto nel suo bar Salvini, è vero? Sì. Ma lei non si vergogna ad accogliere Salvini? Io, i miei amici, i miei genitori, i miei parenti, abbiamo combattuto per la Resistenza, siamo morti, e lei accoglie onorato alla grande egregio signore. Io ho un locale pubblico, ma è una vergogna che lei possono venire chiunque. No, è una vergogna, perché gente come Salvini, che è un razzista, un fascista, non deve accoglierlo. Ma purtroppo nessuno la pensa come lei o come non la penso io. C'ho un locale pubblico. Quanta gente ha fatto la Resistenza? Ho capito, caro lei, ma no, lei se la vuol prendere con me, che sono un piccolo barista. Ma lei deve vergognarsi, è un atto veramente vergognoso. Non mi deve rompere il cazzo, cogliere. for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the dumbest trap. Allora, abbiamo con noi l'ideatore della pubblicità, secondo me una pubblicità vergognosa, quella dei comuni della Locride contro il nord, contro le spiagge del nord, in particolare il governatore Zaia si è incazzato come una bestia. Klaus Davi, buonasera. Buonasera. Ma chi se ne frega di Zaia? Sta in campagna elettorale. Ma come chi se ne frega di Zaia? Ma che vuol dire campagna elettorale? Voti. Ma che i voti li fa su questa roba qua? Che gliene frega? Certo che li fa. Ma quello piglia il 60% comunque, a prescindere. Che gliene frega, Zaia? 60% è con me, venite in Calabria, no COVID, vi aspetto. Ma Cruciani, cosa ma che no? Ma non è che a nord c'è il COVID e in Calabria no? Ma di che parli? Ma lui ha fatto la pubblicità comparativa, però ha fatto una cosa che sicuramente forte, sicuramente divisiva. Parla sempre di trans, di sesso. Cosa vuoi che ne sappia? Ma io so benissimo che cos'è la pubblicità, questo tipo di pubblicità. Denigrare un altro prodotto in America si fa. Denigrare un altro prodotto. Denigrare, comparare subito. Ma comparare su dati di fatto, hai detto un sacco di cazzate. Hai fatto schifo. Ho detto solo che un po' inquinato, la Calabria è sana, dai, faccio un po', tiro l'acqua al nostro mulino, infatti abbiamo già un boom di prenotazioni. Ma quali è boom normale, di prenotazioni? Già. Ma quali boom di prenotazioni? Boom di prenotazioni? Ma queste sono tutte cazzate che ti inventi tu. Allora, sei invidioso della Calabria. Andiamo per ordine. Leghista. Andiamo, a parte che tu leghista. Sei leghista. Ma vai a fare in culo, tu e la Lega. Ma che... Allora, Klaus Davi è l'ideatore ti di questo. Scoperto ormai, ti hanno scoperto. Comunale di San Luca, rispettami. Ma che me ne frega che sei consigliere comunale? Tu sei in Calabria semplicemente che ti sei fidanzato con un carabiniere una volta, di che parli? Non è che sei in Calabria per amore della Calabria, per amore dei calabresi, dei maschi calabresi sei là in Calabria. Non diciamo cazzate. Adesso sei innamorato della Calabria. Sei innamorato di uno una volta, un calabrese, e alla fine sei è rimasto in Calabria a fare il consigliere comunale. Vabbè, questo non c'entra. E non diciamo cazzate, dai, su, l'amore per la Calabria di Klaus Davi è un paraculo. Poi a un certo punto è andato in Calabria. Vieni tu con me a casa dei miei mafiosi, vediamo se quello è giusto, quella è una battaglia giusta che hai fatto. Però fermi tutti. Allora, la realtà di questa pubblicità che ha fatto molto discutere è questa. Venite, io la sto riassumendo, ma in realtà è così, inutile che fai il paraculo. Venite da noi, no, non si ascolta perché le parole non ci sono. Venite da noi, al nord si rischia il COVID. Questo è il punto fondamentale. Non c'è la parola COVID. Ma vergognati, stai di quello strumentalizzando. Io ti querelo, tu stai strumentalizzando. Bravo. Allora, non dire cazzate. C'è un'allusione. Non è vero. Voi strumentalizzate, voi odiate il sud, ci volete mafiosi, ci volete reietti, noi ci ribelliamo. Ha parlato, dove l'ho chiamato questa sera? Quale numero l'ho chiamato? Per caso 109 eccetera eccetera, un numero di Catanzaro? 026 a Milano, che cazzo fai? L'uomo del sud parla, ma vai a cagare. Io lotto per il sud. Ma che lotti per il sud? Tu lotti per... Con la Boccassini, con Davigo. La Boccassini è palesemente... Non c'è più, è in pensione. Voi è in pensione la Boccassini. Allora, ma io non vi voglio mafiosi per niente. Klaus. Allora, ascoltatori, milioni di ascoltatori. La Zanzara è il programma più ascoltato della radio italiana. Aspettiamo a braccia aperte, bianco, Africo. Sì. Siamo accoglienti, venite in vacanza da noi. Ma è Africo, straordinario, Africo. Vi aspettiamo tutti. Ma Africo. Bellissime donne, Africo. Bellissimi Africo. Uomini. Sei zitto un attimo. Africo non era quel posto dove c'erano i proiettili una volta. Ecco, vedi, sei razzista. Io ti querelo, ti denuncio. Una volta, anche San Luca, anche San Luca è abbastanza famoso, esatto. Diciamo, per il passato. Non sono paesi. Perché dovete avere pregiudizi su San Luca? Ma no, non è un pregiudizio. San Luca, no, ma c'è bellissima San Luca, ma non c'è dubbio. Ma è il comune della città metropolitana di Reggio Calabria, famoso nel corso degli anni perché storicamente è uno dei. Però adesso è cambiato, magari. Ci sono a Milano, voi difendete. Ci sono al nord, non ci sono più a San Luca. L'Andrangheta, non sapete un 20 anni di sangue a San Luca, diciamo, fa parte della storia. Vabbè, ragazzi, di quella però città, torniamo al punto fondamentale. Allora, non è vero che tu non hai parlato di COVID, perché hai parlato del dilagare dell'epidemia nel nord Italia all'interno di questo spot. Ragazzi, per cui non dire cazzate, tu hai attaccato il nord con le immagini delle spiagge. Ma non ho attaccato il nord, ma hai detto che sono la sanità. Non dire cazzate. Ma hai scritto che sono, che c'è l'inquinamento, sanità, migliaia di morti, dilagare delle l'ha detto le Iene, l'hanno detto tutti. Ma sti cazzi. Ma che cazzo, non ne sai niente. Ho detto che la vita in Calabria è sana, possono venire in vacanza. Ma perché? A nord che poco. E a nord, cioè, che cosa voi volete dire che siamo mafiosi, che siamo mafiosi, che siamo mafiosi. Ma chi lo dice? Andate a fanculo, non siamo mafiosi. Ma questo è pazzo totale. Ma tu non hai affatto detto questo. Tu hai detto che a nord c'è l'inquinamento, migliaia di morti. È il, la il dilagare. A Milano abbiamo i casi più alti. Ma per tu questo, abiti per a Milano, te... vattene da Milano. Cazzo, cosa ci vuole da capire? Ma fermo, fermo, sei là. Gullo? Fermo là. Dilagare dell'epidemia del nord Italia, hai scritto. Dunque, non c'è il distanziamento sociale. Non è vero che non c'è distanziamento più. Sì, certo. Hai messo l'immagine delle ciminiere, di non so che cose, delle spiagge del nord, dove non ci sarà più turismo di massa, hai fatto scrivere. Ti devi solamente vergognare. Questo ma è il punto fondamentale. E spero che i veneti e i lombardi non mettano piede in Lombardia, non mettano piede in Calabria. Ma vai a cagare. Tu manipoli. Guarda, noi boicottiamo i comuni della Locride. Andate tutti a Jesolo, non so dove. No, ma è così, ragazzi, di fronte a questa follia di Klaus Davi. Tutta, faremo il gemellaggio San Luca Jesolo. Ho già parlato con Centinaio, siamo d'accordo. Punto. Ma faremo il gemellaggio Calabria Veneto. È finita. Beh, questa basta. È una bella idea. Questa è una bella idea. No, ma certo, ma la Veneto è pieno di calabresi, strapieno. Sì, i calabresi sono ovunque, sono avvocati, docenti universitari, ma che giornalisti. C'entra? Ma questo chi lo mette in discussione? Allora, non dovete essere razzisti, Giuseppe, tu sei leghista, lo sanno tutti, ma dai. Che leghista, ma leghista, ma ormai è passato leghista, il messaggio, questo ormai, è pazzo, è passato totale. Il messaggio, ma di che parli? Cioè, hai fatto uno spot vergognoso contro il nord. Bellissimo, e su tutte e tu e tutti ne parlano. L'operazione l'hai fatta bene, perché sei una testa di cazzo come me, ma questo è un altro discorso. Essendo tu una testa di cazzo come me, hai fatto uno spot senza crederci nemmeno un secondo, in cui sostanzialmente si dice: venite in vacanza da noi perché al nord ci si ammala, c'è l'inquinamento, eccetera. Non c'è, ci si ammala. La sostanza tu, è questa. Manipoli, guarda, la sostanza è questa. Ma fa, ma acquarela, fare il cazzo, brava, che fai il cazzo, brava, che ti pare. Sei una ma la Boccassini si è ritirata, non c'è più. Boccassini. Ti devi semplicemente vergognare, tu come giusto. Devi vergognare. E vorrei che i sindaci del Veneto, vorrei sociale. Oggi Feltri è stato condannato, voi aizzate. Ma che c'entra Feltri? Che c'entra? Ma che c'entra Feltri? Questo è pazzo totale. Cioè, questo qua ormai è talmente esaltato da quello che ha fatto, il fatto che è su tutte le prime pagine dei quotidiani. È talmente esaltato che si permette di dire della parola, per esempio, contro Zaia. Che ne parlerò anche stasera col ministro Provenzano. Pensate, e vediamo che cosa ti dice. Pensate, ragazzi. Venite in vacanza, esatto, da noi, al nord ci si ammala. Questo è Klaus Davi, capito? Klaus Davi è questo qua, non crede a quello che dice. Abita ma a Milano, manipoli, abita a Milano, credo. Fai io il consulente. Tu stai sempre ma lì a Radio 24. Ma io tu lotti, io mi faccio un mazzo, ma che... così. Ma guarda, mi faccio un mazzo. Tu sei così, andato in Calabria solamente perché hai conosciuto un uomo, solo perché hai conosciuto un uomo, solo perché hai conosciuto un maschio. Per questo sei in Calabria. Per amore del pisello. Per questo sei in Calabria. Diciamo la verità, e non lo dico in senso negativo. Ti sei innamorato di un... Ti sei innamorato... Hai ancora un fidanzato calabrese o no? Ma non c'ho più tempo, dai, c'ho tanti, ne ho tanti, uno in più, uno in meno, dai. Come ne hai tanti? Che sei diventato? Che c'è più? Non si colore. Non si ho più l'età, ragazzi, ho 55 anni. E dai. Che a 55 anni i gay non trombano più, non ho capito. Cioè, a 55 anni i gay non trombano più, cioè è una cosa pazzesca. Cioè, a 55 anni, io conosco un sacco di gay, a 55 anni trombano come matti. Ma non mi sono rotto le palle di dire cazzate da 15 anni? Ma non dire sì, cazzate. Hai ragione, guarda, bravo. Guarda, bravo, mai ragione. Come te, mai come te, che si inventa uno spot, uno senza... Ma io sono un... Tu ti devi inchinare, perché io ho rilanciato il sud. Tu sei... Ma tu che hai rilanciato sud, che cosa? Tu per ci vuoi mafiosi, tu ci vuoi camorristi, vai a tu, cagare, ciao. Tu lavori sul pregiudizio, io ti querelo, ti ciao, faccio causa Klaus, alla Gcom. Ma vai a fare in culo, tu e la Gcom. Ciao, ottima idea, ottima idea. Ciao. Bravo, ottima idea. Michele da Bari, vai Michele. Dimmi. A parte che ho sentito l'intervista a Klaus Davi, è vergognoso, cioè io sono del sud, sì, ma non si può sentire né quello che ha detto e tantomeno quello che ha fatto con quello spot. Ma io chiamavo soprattutto per il discorso dell'immigrato che ha bruciato il gatto. Sì. Volevo soltanto dirti questo, guarda, Dimmi. Ho vissuto in strada per un po' di tempo, per delle situazioni che mi sono accadute. Sì. Pregiudicato anche tu, ex pregiudicato. Confermo, sono pregiudicato. Ma perché? Penso, però è una particolarità di questa trasmissione, effettivamente. Cioè, dà spazio a persone che hanno avuto problemi, sì, spesso sono andati in galera. Ma questo è il problema. Ma lo so. Per che cosa? Furto, droga? No, per questioni legate alla droga. Vabbè, che facevi? L'eroina, la cocaina, che ti facevi? La bianca, la cocaina. Ma ti facevi o spacciavi? No, tutte e due. Facevo uso, Cocainomane. Esatto, però sono fiero di dirti che non da diverso tempo, da parecchio tempo, non tocco più quella merda. Volevo dirti solo questo: io ho vissuto per strada e mi sono mancati i soldi anche per comprarmi un panino. A causa della cocaina, ho perso anche la famiglia, il lavoro, mia moglie, ho perso tutto. Perché quella purtroppo è una droga che ti fa perdere tutto. In alcuni casi è così. Quanto ti facevi? Fammi un esempio. Parecchio. Grammi al giorno che volavano. Esatto. Però al di là di questo ti volevo dire che sei indignato per il nero che ha bruciato il gatto. Ma io, avendo vissuto per strada, so che cosa. Ma lei a che titolo dice che è indignato? Avendo commesso Fallo parlare. No, ma dico, non è che adesso però alza il ditino e dice: ah, io sono indignato. È stato in galera per traffico di cocaina. Da fare invidia ai narcotrafficanti di Netflix, dei narcos di Netflix, raccontati su Netflix, e viene qui a alzare il ditino. Fammi parlare, ti spiego, io non sono indignato per questo. Sono indignato perché, pur non avendo nulla da mangiare, non avendo una lira manco per lavarmi il culo, io ho sempre trovato il modo per poter recuperare un panino. Giustamente il gatto non l'avresti mai mangiato. Io non sono un razzista, ma nel momento in cui si entra in un posto, in un paese dove c'è una cultura legata agli animali domestici, porca troia, ma rispettiamo quantomeno questo tipo di cultura. Cioè, in Italia noi non usiamo, io rispetto. Ho capito benissimo. Fermi tutti. Grazie, Michele. La Zanzara. Vedo molto negativo. I've been taking my time, slow going's nothing new to me. Primo ufficiale, pilota di linea, e anch'io quando vado in hotel mi sgrullo il pisello con gli asciugamanini della faccia. I love my radio. Ciao, sono Marco da Genova e quando opero scorreggio in sala operatoria. I love my radio. La merda si è mangiato il gatto a Livorno, lì a Campiglia Marittima, e ha detto che l'ha mangiato perché aveva fame. E perché non poteva andare alla Caritas, gli davano pasta, pollo, pane, tutto il resto, a fare sta merdata di cucinarsi un gatto in stazione. Che uomo di merda! Ma che comunque per il danno fatto è meglio che l'abbia fatto in pubblico, così almeno è saltata fuori la merda che è sta persona. E non voglio dire tutta la razza perché io non sono razzista, però voglio dire che uomo di merda, cazzo. Meglio che l'abbia fatto in stazione che non in una fascia, in un bosco di nascosto, così non lo arrestavano nemmeno. Appena l'hanno neanche arrestato, in Italia puoi fare il cazzo che vuoi, anche reati ben più gravi. Diciamo che da questo punto di vista il demone è un esempio, no? È un esempio di quello non che posso. Non è persona che può parlare, non è tu dici non può che dare lezione di... a nessuno, no. Dici non può dare lezione all'immigrato che arrostisce il gatto. Allora, ti faccio conoscere, caro David, un personaggio che si chiama Massimo Citro, che è uno scrittore, uno storico, uno sceneggiatore, lavora anche come medico e psicanalista a Torino, il quale parla del Covid, insomma del coronavirus, come la più grande farsa della storia messa in atto per instaurare un regime mondiale. Mamma trovo straordinaria questa cosa qua. Chi pensa che il Covid sia stato creato per un regime mondiale? Bellissimo. Dunque, questo secondo me è un colpo di stato mondiale. Perché dal punto di vista clinico questa infezione da coronavirus è stata completamente stravolta dalla propaganda. nell'85%, 90% dei casi, secondo degli autori, c'è un delta di 5%, sì, allora? Produce una sindrome influenzale banalissima o addirittura completamente asintomatica. In questo è molto gottardiano, questo citro, molto molto sì, gottardiano. No, non gli fai un complimento in questo, non gli fai un complimento. Perché non gli faccio un complimento che c'ha? Cioè, ma no, ma è come dire sei come il generale Pappalardo, è come dire sei come la Clementi. Essere pappalardiano ed essere gottardiano è la stessa cosa, insomma. Sì, stai ecco, forse ma stai paragonando Gottardo alla Clementi, ecco. Alla Clementi. No, dai, dico ecco, su, forse dico forse Pappalardo ha qualche titolo in più perché poi è stato anche sottosegretario del governo dire? Ciampi. Che cazzo vuol dire? E quindi magari ha qualche momento di lucidità in passato Pappalardo l'ha avuto. Vai, Pappalardo. Citro, dico. Citro, ancora questo citro. Anche quella dei vaccini, la legge Lorenzin, io l'ho detto a mio degli medici sotto processo. Signori, questa è una legge di eugenetica. Eugenetica. Voi sapete cos'è l'eugenetica? Vuol dire fa fuori un sacco di bambini. Ma questa cosa non l'hanno inventata i tedeschi, il nazismo, no, chi l'ha con il ministro della propaganda Goebbels e con Himmler per fare le stragi. No, chi l'ha inventata? Chi è l'ideatore dell'eugenetica? Primi del Novecento, John Davison Rockefeller, il primo Rockefeller. Della dinastia. Signor Rockefeller. Non c'è nulla di me. Come Rockefeller? Dice che l'eugenetica l'ha inventata il signor Rockefeller. Perché delira così la gente? Perché? Io direi di andare ad Alberto da Vicenza. Vai Alberto, dimmi. Ciao Cruciani, dimmi. Mi spieghi come fai a essere d'accordo con quelle follie dette da Morelli? Morelli non ha ragione, ha ragione al 150%, ma ancora una settimana dopo stiamo a Morelli. Cosa ha detto di così strano Morelli? Che la donna, si sente, ha problemi Morelli se non si sente cercata. Morelli, di che parliamo? Dai, Morelli, su. Morelli ha detto che se una donna non viene guardata deve iniziare a preoccuparsi. Ma non c'è dubbio, tutte si preoccupano. La maggior parte delle donne si preoccupano se non sono guardate, ma preoccuparsi non significa che si deve buttare dalla finestra, significa semplicemente che si preoccupa. Cioè, come fai a dire che se uno è avvocato, se uno è magistrato, non importa perché se non c'è il femminile non è quello il punto. Puoi fare magistrato. Sì, puoi fare l'avvocato, però se ti manca. Ma se ti manca il femminile, sti cazzi, ma chi se ne frega? Sei una donna, te? Ma che cazzo ne sai, innanzitutto? Ma scusami, che fai il sondaggio tra le donne? Che vuol dire? Allora che vuoi? Che dici? C'è anch'io, ovviamente. Ma il discorso è che il femminile deve essere. Ma scusami, Morelli dicendo così dice sostanzialmente che se una donna non è femminile è sbagliata. Non è sbagliata, cercata, che non viene corteggiata, che non viene guardata nella sua femminilità, non è sbagliata, dice che comunque ci sono delle ripercussioni, tu che fa di tutto per essere cercata dallo sguardo maschile. Ma ci saranno donne che se ne sbattono il cazzo di queste follie di Morelli? La maggior parte è così, certo, ci sono donne che se ne sbatteranno allora il cazzo. Morelli, è inutile che faccia questi discorsi pensando di parlare per tutte le donne. Morelli può dire che per alcune donne questo vale, ma per tantissime altre donne se ma ne che sbattono esattamente il femminilità. Contrario, la proporzione è esattamente il contrario. Manuela da Torino, vai. Manuela, dimmi. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Ciao, dimmi Manuela, dimmi. Io uso le traversine per squirtare. Ma scusa, così di colpo, allora tu usi le traversine per squirtare, cioè dire per dire questa cosa. Non ho capito una cosa. Le traversine sarebbero praticamente quella specie di tappetini, diciamo, di plastica. Sì. Per comodità, Giuseppe, uso quelle dei cani, perché ho dei cani, ma sono altre cose igieniche, voglio dire. Quelle dei cani. Ma io non discuto nel merito. Le bambini uso quelle. Ma io non discuto nel merito di quello che lei usa, la carta igienica, le traversine. Io discuto proprio del merito, cioè nel merito della cosa di allora, una persona che chiama in piena serata. Allora, aspetta, fammi capire bene, Manuela. Fammi capire bene. Allora, tu, innanzitutto, tu squirti in maniera naturale, da sempre hai scoperto lo squirting, che ne so, grazie. L'ho scoperto con il mio GS. Con il tuo? GS, giovedì scopereccio. Con il tuo giovedì scopereccio, che vuol dire? È un fidanzato che non è. Ma non lo so, un trombamico, un amante. Vabbè. Chiamalo GS, va bene. Il tuo GS, perché il giovedì? Scusa, non ho capito perché. Finora è capitato così, ci è andato comodo. Ogni così. Giovedì. Cioè, La Filippina non c'è il giovedì in genere, no? Sì, io sono l'agenda almeno una o due volte al mese. GS, vabbè, una. Addio. Ok, benissimo. Una o due volte al mese ti fai una trombata con questo qua. Ma lei non è sposata? gran cosa. No, no, David, non pecco. Mi creda. Fidanzata? No. Vabbè, ma no, perché cioè, voglio dire, comunque in ogni caso, al no, di là no, però sarebbe divertente uguale, cioè, senza allora, giudizio. Una o due volte al mese scopi con uno che ti ha fatto scoprire, scopi con questo qua che ti ha fatto scoprire il, lo squirting. Sì. Ma perché con il suo movimento con le mani, come te l'ha fatto scoprire? Sì, sì, sì, lui ha proprio una tecnica, io non so. Beh, tra l'altro adesso vorrei capire se Maura Gigliotti riprende a fare i corsi, io parteciperei, anche perché è una pratica che mi piacerebbe. Ma non ho capito in che modo squirti? In che modo squirti? Cioè in maniera abbondante? No, in maniera abbondante. Tantissimo, sì. Tantissimo. Per la prima volta quanti anni l'hai scoperta questa cosa? No, sempre con lui, tipo 6-5 anni fa. 5 anni fa. E dunque hai bisogno, quando lo fai, di mettere qualcosa sotto per non sporcare, in per realtà, non bagnare. Sì, è nata da il furbetto, mi faceva squirtare sul mio lato del letto. Quindi la mia porzione rimaneva bagnata, che per carità è come si dice per i bimbi, pipì santa, vabbè, liquido capito. Della gioia, però intanto è scomodo, nel senso che rimane. Invece tu a un certo punto hai preso le... Ma io ho avuto questa pensata, ho detto sai che c'è? Traversina, ripariamo lenzuola, materasso, coperte, piumoni, eccetera, e viva la gioia. Beh, scusami un attimo, ma che tipo di sensazione ti dà? Diversa dalla... No, diciamo, è completamente diversa dall'orgasmo. Giuseppe, è una roba che ti prende dalla punta dei capelli ai piedi, è una roba... ti lascia senza fiato. Dunque tu consiglieresti a ogni donna di provare a vedere se è capace di farlo? Assolutamente, voglio imparare anch'io ad autosquirtare. Cioè vuoi imparare a farlo da sola? Sì. Cioè per adesso ci riesce solo lui attraverso un movimento particolare in cui tocca in fondo. Che succede concretamente? Sì, Parenza, sì. È importante questo per una donna? Cioè lei dice che... Ma è importante, ma è importante evidentemente che lei ne parli col suo padre, non in diretta radiofonica. Ma questa invece vuole raccontare una gioia della sua vita, cioè vuole raccontare una parte positiva. Io non condividerei mai delle parti intime della mia vita così con milioni di ascoltatori. Ma se lei invece stimoliamo le donne a farlo. Sì, ma perché lei è un esibizionista, una simpatica. No, ma non c'entra niente. Allora, sono proprio discreta nella mia vita, mi creda. Ma come discreta? Ma come fai a dire discreta? Ma scusami Emanuela, questo movimento dopo quanto porta la squirtata? Cioè ci vuole quasi subito, ma neanche un minuto. Cioè riesce a toccare delle parti, ma questo prima o dopo il rapporto sessuale? Prima, dopo, durante, dipende. E quante volte squirti durante, diciamo, questi incontri con il giovedisco del giovedisco? Beh, sempre, per sempre continuamente, cioè non hai limiti. No, vabbè, anche perché a un certo punto finirà il liquido, no? Sì, cioè. Certo, appunto, no. E quanto si bagna tutta la stanza? No, per capire. Tutta la stanza. No, la stanza è il letto, cioè dire la quantità di squirt emesso, qual è? La riempiamo. La traversina la riempi. Sì. Tutto. Poi si accartoccia, si butta e viva la gioia. E viva. Ciao amica mia. Mamma mia. Ciao mia. Mamma mia. Enrico da Alessandria, vai Enrico. Dimmi Enrico, dimmi. Pronto? Cruciani, ciao. Dimmi Enrico, no, dimmi. Allora, senti, io voglio intervenire un attimino su quel africano che... Sì. Ma che fai tu? Sento rumore, che sei su un camion, no? Sì, sono su un camion. Io lavoro non solo come gli africani che vengono qua, Baluba, Radio Savana e mangiano grassi. Baluba. Io per mangiare Baluba. Devo lavorare. Così ha detto, cioè dice... Baluba. Dice, ha detto Baluba. Che ti devo dire? Baluba ha detto. Baluba. Parenzo. Oh Madonna, c'è ancora quell'uomo? Beh, sì, c'è, insomma, fila prova. Ma io dico, ma come si fa ad esprimersi in modo così cavernicolo? Come si fa ad esprimersi in modo così cavernicolo? I cavernicoli li stanno portando, i tuoi amici che sono al governo in Italia, i cavernicoli. Perché uno che ammazza un gatto e mangia un gatto davanti alla stazione. Sono scene che in Italia dei poveri... Ma guardi che... sono d'accordo con lei, ma guardi che Cruciani mangia le nutrie, mangia l'orso, le nutrie! Ma che cazzo c'è? Non ho capito cosa vuol dire, cioè che mangio l'orso, che mangio i gatti, che sto in strada a cucinare i gatti. Aspetta un attimo, ma fermo Enrico, fermo che torno con te, fermo là. La zanzara. Io quella merda di clandestino nero che ha mangiato, ucciso e mangiato il gatto lo rispenderei a calci in culo da dove cazzo arriva. Logica, spazio, tempo, module block, l'evoluzione del magazzino. Vi presento La zanzara. I'm a vampire. How'd you find her? L'agnello tradizionale, cosa si faceva? Con l'agnello tradizionale che non c'era. Ma l'agnello tradizionale ci si facevano i gatti. I gatti, i gatti? Sì, i gatti. E come si vedevano certi gatti così grossi. Mio nonno, c'era una figlia che lavorava, la sera veniva, c'era una bella voce, per scale cantava, quelle canzoni romane di prima. Allora gli mettono sto gatto alla cacciatora, va di là e questa comincia a stizzicare, sto gatto lo mangia. Allora mio nonno gli faceva miau, miau, e lei dice, ah papà, ma che va preso stasera? Perché che fa fate con questo modo così miau miau? Niente, così stasera mi ha preso così, mi sento un po' di allegria, allora miau, miau. Allora vanno a tavola e mia nonna, mi ricordo, spartiva, diciamo, abbacchio, che era in Pasqua. Sì, questo sarebbe abbacchio di Pasqua abbacchio di quell'epoca lì. E allora, buono, quanto è buono saporito un bel po' di peperoncino, un bel po' d'aglio, rosmarino. Sa tutto proprio forte, fatto cucinato proprio forte, andiamo tutti buono. Allora mio nonno era l'ultimo, dice, Antonia, c'è papà, c'è, ma ti è piaciuto sta bacchio? Mazza, c'è, ma come hai fatto così buono? Ma come ho fatto? Dice, come al solito, dice, ci ho messo tutto odori e ho fatto sta roba. Quante la buona. Ah, tu che tutte le sere vengi e vai di latte, vai a mangiare tutta la cena, non ci vai rimane niente. O sai che era? Era il gatto. Dice, ma davvero papà? Cioè sì, era il gatto. Dice, mamma mia quant'era buono papà. Il gatto e la sorella. Ma eravamo con Enrico da Alessandria. Con Enrico da Alessandria che è incazzato nero contro Parenzo, contro chi fa entrare gli immigrati, camionista. Enrico, vai. Allora, che stavi dicendo? Io non ho capito. Dicendo che ci fanno tornare indietro di 100 anni, perché qui la savana in Italia non è ancora arrivata. La savana, la da savana. Da quando questi politici qua, incapaci, e per non dire altro, perché non voglio prendermi la querela, non sono capaci di gestire niente, neanche le mutande che portano addosso sono capaci di gestire quella gente lì. Affidiamo tutto a te, allora. Arriva l'altro colorato, cosa fa? Vuole affidare il pappagallo di Enzo. No, ma tu al posto di quella signora là, cosa avresti fatto davanti a quella scena dell'immigrato che cucinava il gatto? Non ho capito. C'eravamo io e un paio di miei commilitoni. Che vuol dire commilitoni? Scusa. Commilitoni che vestono, piace il colore nero, no? Ah, ma perché tu sei un altro di quelli che... Sì, prendevamo la bestia che ha ammazzato l'animale e lo facevamo noi alla braccia. Beh, amico mio. Dunque, no, questo signore qui mi sembra l'importante che sia... è avere il recapito di questo signore. Mi il sembra un signore leggermente un ammiratore di sua eccellenza Benito Mussolini, se non sbaglio. Ah, no? io sono un grandissimo fan di sua eccellenza Benito Mussolini. Capito, Parenzo? E lo dice come fosse unico. Normale? E lo dice come fosse una cosa normale. Si può cantare Bandiera Rossa, ma non si può cantare Facciata Nera. E cantala tranquillamente. Esattamente, canta. Che non si può. Esattamente. Cantala, esattamente. Cantala. A me non me ne frega un benamato cazzo. Io continuo a cantare Facciata Nera. I miei cellulari, quando c'è la suoneria, c'è Facciata Nera. Cioè, tu nei tuoi cellulari hai tranquillamente Facciata Nera. Pensa che belle figure di merda che fai quando vai in giro. No, tutti quanti mi vengono a dire. A noi. Io non ho capito. Tutti quanti chi? Io non ho capito. No, lei mi sembra lei rimasto al ventennio, francamente, tra noi due. Mi sembra lei rimasto magari, un po' indietro. Magari dopo questa democrazia del dopoguerra, dopo questa democrazia. Lei ha dei figli? Lei ha dei figli? È sposato? Non sono sposato, ma non ho dei figli. Io non ho capito una cosa, insomma, lei è un ammiratore di sua eccellenza. Però mio nipote, 15 anni, sì, è più nero di me. Perché se si è reso conto, da piccolo si è reso conto, studiando quella poca storia, aveva capito da che parte sta bene e da che parte sta male. Ma che bella famiglia. Scusa un attimo. Che lavora, paga le tasse, mantiene governanti e ha degli stipendi faraonici. Ma clandestini in hotel, mentre ci sono i terremotati che sono ancora nelle baracche. Ma secondo te, Davide, scusa, non ho capito, ma secondo te Enrico D'Alessandro è il prototipo del camionista oppure no? Oppure la categoria si dovrebbe vergognare? No, ma Ma non c'entra il camionista, è il prototipo dell'imbecille, no? Del camionista, cosa c'entra? Sono camionisti, mica i camionisti sono, guarda, tutti fascisti, ma scherziamo. Guarda, ma è il prototipo del poveretto. Per me è un grandissimo complimento. Ogni offesa di Parento è un poveretto. Ma che cos'è, poverino? È un disadattato, cosa vuoi che sia? È una persona che è disturbata, con problemi, uno che ancora pensa al ventennio, dai, che cos'è? Siete altro che disturbati voi comunisti. È una persona da aiutare. Voi dovete essere lobotomizzati. Ma voi chi? No, lobotomizzati, ma di che parli adesso? Lobotomizzati. Tu già vuoi bruciare gli immigrati, oppure quello là che ha bruciato il gatto? No, attenzione. Io brucerei l'immigrato perché... Ma ho capito, ma che brucia? Ma che dici, brucia l'immigrato, che col gatto davanti che brucia, che arrostisce il gatto? Che cazzo dici? Dai, su, ma che cazzo bruci? Ma che cazzo bruci? Non bruci nessuno. Quello va condannato, preso e messo in galera. Scusi, e ad esempio, e quel padre che ha ucciso i due gemellini, ad esempio? Cosa facciamo con quello lì? Quello lì spero che sprofondi nell'inferno, che non esca mai più, perché quello è un delinquente. Quello è morto, si è suicidato, ragazzi. Quello si è ucciso. Vi segnalo che si è suicidato. Vabbè, Enrico, non ho capito bene, ma tu qualche... E con gli italiani che abbandonano i cani in autostrada, ad esempio? Ma che c'entra quello adesso? Lo attacco al camion e lo trascino in autostrada. Quindi lei ha gli stessi metodi... ecco, questo qua è la sua caratteristica, quello di... Sei a favore della pena di morte, probabilmente, no? Sì, certo. Pena di morte, cioè, per delitti efferati, come fanno i compagni... Certo. Guarda, mi sto chiamando dal suo altro cellulare, senti un po'? Senti, no. Che bello! Che c'è? Che musichetta è? Non ho capito, che è? Faccetta nera? Che cos'è? Sì, certo, Faccetta nera. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Io non ho capito una cosa, ma nelle piazzole di sosta ci sono ancora i gay che vengono lì a cercare... Sì, vengono... A cercare marchette varie, sì. Certo, se tu scendi dal camion a pisciare, questi qua vengono la macchina, vengono a vedere l'uccello che hai, eccetera. Ma tu che rapporto hai con gli omosessuali? No, io non sono omosessuale, a me piace la figa. No, ma ho capito, ma che rapporto hai con gli omosessuali? Nel senso, cioè, come li consideri? Ma per me, guarda, possono prendere il culo, basta che non lo vedano a me, poi... Io non sono contro... Beh, nessuno sono gay lo vuole. Ma sai una cosa, sono contro al gay pride. Perché? Perché ci fanno vedere tutto così, che è una schifezza immane, anche lì. Ma che è una manifestazione normale? In una cella, lobotomizzato anche loro. Cioè, al gay pride tu prenderesti quelli. Al gay pride tu metteresti in cella e lobotomizzare le persone. Almeno in galera. Cioè, quelle cose lì davanti dei bambini a me non le metti in galera. Ma roba da pazzi. E Parenzo sta zitto. Cioè, vabbè, cioè, è una persona da ricoverare. È uno da ricovero, questo. È talmente lobotomizzare quelli del gay pride, sei un criminale pure, Enrico. Ma cazzo ci fa a dire lobotomizzare quelli del gay pride? Ma io spero che lo denuncino. Cosa vuoi che ti dica questo qua, imbecille? Se uno... Ascoltami, se lo vogliono prendere nel culo, lo facciano nel loro muro di casa. Non devono farlo in mezzo alle piazze. Ma chi è che lo prende in culo in mezzo alla piazza? Rincoglionito. Vabbè, ciao Ari, ciao. Un povero spostato. C'è il Conte Dolphin, eccoci. Pronto? Qui Conte. Sono qui, pronto? Dimmi tutto, Conte. Allora, la mia opinione dell'immigrato che ha mangiato il gatto, opinione fame. Non richiesta, peraltro. No, richiesta. Ma, guarda, assolutamente non richiesta. Mandalo a fare in culo, fame, Conte. Se una fame, mangia. Giusto, quello che ho detto io. Non c'è da meravigliarsi. Lui ha visto un felino, una preda. Ce l'ha preso. Ma come non ce l'ha mangiato? Perciò, c'è da spiegare, capire, che da noi non si fa. Ma che da capire? Questo, non è da ma c'è da spiegare che da noi non... Bruciarlo, ma figurati. Tenendo ma presente che è sbagliato. Tre quarti delle mense dei poveri sono chiuse per Covid. Perché io giro, certo, ho servito nelle mense anche i poveri. Siamo tutti in casa. E i poveri se ne vanno nei bidoni dell'immondizia a mangiare l'immondizia. Cioè, se questo ha trovato la carne, un gatto, pazienza, madonna mia, non sarà mica, Dio lo perdonerà. Non è che sia stato... Ma infatti nessuno lo vuole mettere a rogo. Un delinquente, che è un povero disgraziato, come tanti disgraziati, certo, che ci sono, sicuro, che arrivano, certo, in Italia, certo, poverini. Certo. Scusami, Conte, ma non sei incazzato con quei calabresi, con quei sindaci calabresi che hanno fatto quello spot in cui dicono che al nord c'è il coronavirus, con le spiagge venete inquadrate? Guarda, è tutta una... pubblicità negativa per loro, perché se chi ha i soldi sono i veneti, i lombardi, i piemontesi, i genovesi e gli emiliani. Se non andiamo a fare le vacanze, che ci piace andare là, perché hanno bellissimi posti da ammirare, si mangia anche bene. Tu dici, alla fine è un autogol. Qua, sono malati di cervello. Cioè, sputano sul piatto dove mangiano. Ciao Conte. Paolo da Cuneo, vai Paolo. Paolo, ci sei? Paolo. Dimmi. Sì, sono dimmi. Io. Paolo, dimmi. Niente, partecipare al tuo programma al discorso di Bissani, ma ormai è passato no, di moda. No, dimmi Paolo, passato di moda, non c'è niente passato di moda, che vuoi dire? Volevo dirti che quel ragazzo lì che ha telefonato, direi che l'ha sistemato per benino. Bissani, ma c'è stata una bella battaglia, non è che ragazzi, però non è che uno non può parlare se ha avuto un problema col fisco che ha sistemato, no, non è che uno non può parlare per questo. Ma non è il punto di parlare per quello, il punto è che quando uno si vuole fare delle battaglie, eccetera, deve essere senza macchia, senza peccato. Senza macchia e senza peccato. Ma adesso uno ha avuto un contenzioso col fisco e senza macchia, senza macchia, cioè, senza significa che è un evasore fiscale. Uno lo bolla come evasore fiscale a tu culo. Ma che cazzo dite, ragazzi? Ma non possiamo. Quello sarebbe il meno. Bissani è improponibile, è volgare, è un maschilista. Beh, a te piacciono i maschilisti, quindi sicuramente no, guarda, per me il maschilismo praticamente non esiste. Figuriamoci un po', se considero. Come non esiste, ma come non esiste il femminicidio, infatti. Ma che vuol dire maschilismo? Ma che vuol dire maschilismo? Che disprezza le donne? Le considera inferiori? Che cazzo è? Bissani? Macismo, maschilismo. Ma guarda, ma parla in maniera esplicita di quello di cui parliamo tutti, ragazzi. Cioè la figa, le donne, gli uomini, eccetera. Il maschilismo è un'altra roba, il maschilismo è la supremazia. Questa roba qua, ma di che parlate? Sempre con ste cazzate. Fermo là, Paolo. Ciao. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta La Zanzara. Oh, grande Cruciani, anche tu mi hai aiutato a smettere di drogarmi. Sono pulito da 6 mesi quasi, non tocco cocaina e crack da 6 mesi. Sono veramente un'altra persona, ho salvato qualche dente. Vi ringrazio, grazie a tutti, ciao, arrivederci. Sento le voci, sì, mi sento chiamare dalle mie fantasie. Yeah! Sento le voci, sì, mi sento chiamare dalle mie fantasie, dal profondo del mare, dalla TV, dalle porcherie, dal silenzio dei sogni inconfessabili. Demone scimmia! Demone, perché ha chiamato oggi? Com'è la situazione lì in comunità? Ma solita merda! Un dottore chiamato un dottore. Cosa? Qui c'è un ragazzo che muore affogato nella palude. Quando? Del Nazional Popolare. Tati! Non vedo la lucetta rossa. Come mai? Dove sei, Veneti? Cioè, ma tu veramente, Cruciani, sei così coglione, stupido, che le puttane vogliono le case, vogliono riaprire le case chiuse solo per pagare le tasse? Ma che cazzo state dicendo? Ma dove cazzo vivete? Dai, su! Lunga vita alla prostituta Lalla, cazzo, grandissima, onesta, l'unica che dice la verità. Io voglio vedere, io mi sono rotto il cazzo di tutte quelle puttane di trans che dicono che vogliono avere le case chiuse, aperte, perché così pagano le tasse. Ma chi cazzo ci crede? Ma andate a fare le fottere un'altra volta, dai, su. Io non ci credo che loro vogliono le case chiuse per pagare le tasse. Impossibile. Chi cazzo è che vuol pagare le tasse? Io non le voglio pagare le tasse, sono obbligato, ma non le vorrei pagare, quindi non ci credo che le puttane vogliono le case aperte solo per pagare le tasse. Quindi viva Lalla, bravissima, grandissima, continua a fare la puttana senza pagare le tasse. Allora ragazzi, ricominciamo con Maddalena dalla Firenze, se non sbaglio. Maddalena, che abbiamo chiamato l'altro giorno, ci ha chiamato lei l'altro giorno per lamentarsi della trasmissione, i discorsi di sesso, Cruciani non capisce un cazzo, discorsi di non so che tipo. Maddalena, ci sei? Sì, ci sono. Allora, qual era, siccome ci siamo lasciati, avevamo solamente pochi secondi, quando ti sei, sì, pochi secondi, qualche minuto, qual era la protesta? Non ho capito qual era il punto. Erano due i punti. Dimmi, Cruciani, dimmi cara, dimmi. Prima dimmi di tutto, riguardo al sesso, sono d'accordo, sesso libero, parliamo del sesso, ma se lo stai facendo in una maniera veramente infima. In che senso infima? Sembra quando a me mi fa benissimo sentire di parlare di fisting. Ma che vuol dire in maniera sembra di sentire un pedofilo, un pervertito. No, pedofilo. Io non ho detto che pedofilo tipo pedofilo non ti permetto di dirlo. Che vuol dire che sembra? Ma pedofilo un cazzo. Hai cosa... chiesto a una di 18 anni quando l'ha scopato la prima volta mesi fa. Era proprio di un livello. Ma perché 18 anni che fa? Non si può dire, non si può raccontare quando uno ha scopato la prima volta. Non ho capito. Sì, però lo fai proprio in maniera viscida, ecco, sei visto. Ma se pensi che sia viscida, ma cosa vuol dire? Ma non fare il viscido. Ma che non fare il viscido? Parliamo di pallame, pure il pallame, no? Il perineo. Allora qual vuoi è il problema? Vuoi farti leccare il perineo? Allora il perineo, non ti sta bene non ti sta bene la Saulino, il linguaggio della Saulino, non ti sta bene il mio, non ti sta bene il fatto che secondo te io, perché secondo te io sbaglio. Una donna come la Saulino, ma strumentalizzo che fa il suo lavoro. Ma che strumentalizzo? Che? Ma di che parli? Vero, ma questo, ma che vuol dire strumentalizzo? Ma che vuol dire strumentalizzo? Sembra una donnina messa lì. Lei parla di un argomento, il leccaggio delle palle di una donna a un uomo. Ma non c'è nulla di male a parlare del leccaggio delle palle. E allora che vuoi? Ma cosa vuoi? Ma parlane. Però allora, parlane. Ma il livello è basso secondo te? Del protocollo vaccinale, ma chi della, se ne frega del protocollo della vaccinale? Della fattazione rettale del cavallo. Ma non me ne frega niente del pisello del cavallo, vuoi parlare? Ma allora che vuoi? Non ne parlare. Non so che ti piacerebbe. Ma non ho capito, se non ti piace ascoltare certi discorsi di sesso, ti piace ascoltarne altri? No, io prima ti ascoltavo sempre. Ma chi se ne frega? Non me ne frega nulla. Invece non hai capito ancora? No, se no si chiuso. Ma non ho capito una cosa. È una grandissima opportunità. Ma non ho capito. Qual è? Sì, va bene. Va bene, d'accordo. È ripetitivo. Sì, sì, va bene. Spegni, bene, spegni. È diventato vecchio e prevedibile. Va benissimo. Spegni questa radio, non mi rompere il cazzo. Allora, ma no, infatti, non io ho capito il pissing. Oh, ma chi se ne frega di quando uscivi dal lavoro? Ma non me ne frega un cazzo. Ti ascoltavo sempre. Va bene. Perché mi facevi ridere. Ok, no. Va bene, pazienza, me ne faccio una ragione. Il pissing, qual è il punto? Cos'è che ti ha dato il problema del pissing? Qual era? Non ho capito qual è il problema del pissing. Che cos'è che ti ha dato fastidio del pissing? Non mi piace come parli del sesso. Aspetta, con le donne. Va bene, va bene, chi se ne frega. Valentina Nappi, che è una grande. Sì, va bene, l'ho invitata 40 volte, non mi rompere il cazzo. Maurizio da Genova, aspetta un attimo, ferma lì. Maurizio, dimmi. Ciao ragazzi, ma tu sei quello che sei quello del pissing. Aspetta, Maddalena, aspetta. Sì, sono io. No, lui no, quello che pratica. Ma che vuoi dire a Maddalena? Di qualcosa a Maddalena, ti prego, che mi rompe i coglioni. Sì, volevo innanzitutto salutarla e dirle che c'è una grande per la grinta, però qui non deve diventare una lezione di semantica. Adesso io vorrei sapere una cosa. Ma, non è Maddalena. Ma sì, ma ci rompe i coglioni. Scusa, Maddalena, ha iniziato a parlare di perineo invece che di altre cose. Ieri parlavano della Mesopotamia e si parlava di perineo. Ma quello è un modo per semantica. È un'iperbole, è una cosa. Ma lo sai che Maurizio, ma lo sai? Maurizio, ma lo sai che Maddalena è veramente una che, porca puttana, una rompicazzo deve essere a livello mondiale. Sì, mamma mia, mi ha richiamato ti ho richiamato perché ti avevo dato pochi minuti e siccome sono un aperto ti lascio tutti i minuti che vuoi per insultarmi. No, perché stai servetto, ti piace, sei un sadomaso. Può essere Maurizio, puoi spiegare una domanda? Perdonami Maddalena, perdonami, una domanda diretta. Hai mai praticato il pissing? Hai mai provato il pissing? Vuoi la verità? No, non l'ho mai praticato. Mi è stato chiesto, pertanto, ma non l'ho mai praticato. Tu stai parlando di qualcosa che non conosci, giusto? Ma io no, io non ho detto questo. Guarda, non ho detto questo. In che... Io ho detto, perché ha parlato male del pissing? Perché Maurizio ha parlato male del pissing, secondo te? Non ho capito. Io non ho parlato male del pissing. No, perché Maurizio ne ha parlato male? Non ho capito perché secondo te ne avrebbe parlato male Maurizio del pissing. Ne parlate in dei modi viscidi, ragazzi. Ma visci di cosa? Ma visci di cosa? Ma cagare. Ma ricordi la mia telefonata, Maddalena? Perché forse non ti ricordi cosa ho detto. Ma non si ricorda un cazzo. Ma io parlo non di te, Maurizio, parlo di Cruciani che sembra un bavoso. Sì, sono bavosissimo. C'ho la cosa, guarda qua. Ti hai tirato della fica con la fica pelosa. Sì, guarda, certo, assolutamente. 10 minuti di fica pelosa, guarda, non te lo perdonerò mai. Due coglioni. È stato uno dei momenti top. Assolutamente uno dei momenti top. C'è un livello così basso. Uno dei momenti top. Ho ancora la bavetta qui, dai, ancora la bavetta qua. Maurizio, spiega. Maurizio. Scusa, Maddalena, io vorrei incontrarti. Beh, questo, io no, questo però... è buono, però questo è mi buono. Dispiace, dai, questo Maddalena, è buono, questo sono... è buono. Maurizio, cioè, Maurizio, aspetta, tu vuoi incontrare almeno ma voglio conoscerla perché mi piace come persona, è grinta. Cioè, ti arrapa da paura, diciamo la verità, ti arrapa da paura. A me Maddalena arrappa. Ti arrapa. Mi piace come persona. Vorresti praticare il pissing, vorresti convincerla a fare pissing. Ma questo sarebbe un. È molto ambizioso come progetto, però è molto ambizioso. Ma perché la vedi dura? No? Perché per esempio, Maddalena, perché lo escludi totalmente il fatto di praticare il pissing, per esempio? È curiosa questa lo cosa. Lo escludo con Maurizio, lo farò con mio fidanzato, ecco. Ma no, tu hai detto che te l'hanno chiesto. Tu sei impegnata, Maddalena, certo. Immagino. Scusami, Maddalena, però no, hai detto... Non, aspetta, non Maurizio, scusami. Maddalena ha detto prima che hanno chiesto, le hanno chiesto di praticare il pissing e ha detto di no, giusto Maddalena? Sì, ecco, sì. Immagino che sia stato il tuo fidanzato a chiedertelo, cioè, oppure qualcun altro prima. Allora, si può dire in diretta. No, ma perché lo hai rifiutato? Perché hai rifiutato questa pratica? Ci sarà per un motivo? L'ho rifiutato, non è detto che lo rifiuterò. No, non c'è dubbio, ma perché? Qual è il motivo? Qual è che cosa che ti ha spinto a dire a di no? Non mi ispira, ecco, per nulla. Ma non ti ispira che cosa? L'idea di essere, come dire, di riceverlo addosso o l'idea ancora vedi, più ardita? Stai scadendo. Ma è quella la cosa! Ma è scadendo che cosa? Ma Maurizio, spiegaglielo te, però, allora, che bisogna entrare nel dettaglio. Su, un cazzo. Innanzitutto, benvenuta nel club, perché a quanto pare anche il tuo fidanzato gli piacerebbe, esatto, diciamo così, praticarlo, giusto? Bravo, no? Ma bravo. Non eravamo, allora, ma... partendo da questo presupposto, vuol dire che, insomma, un po' di curiosità magari anche da parte. Aspetta, che c'è Alberto Dandolo, no? Che mi sta chiamando, che è un grandissimo personaggio. No, prego, aspetta, vai, tranquilla, continua. Prego. Significa che il fidanzato di Maddalena ama allora, praticare il pissing. Ma lui ci è rimasto male quando tu ti sei negata, oppure... aspetta, c'è Dandolo, aspetta un attimo. Dandola, prego. Dandola! Oh, Peppino, senti, io sto andando a cucinare un pechinese. Vieni? No, aspetta. Senti, Alberto, ma sei... Ma la corbaglia che mi devo andare ad appendere alla parete. No, ma sei in diretta. Scusami, Alberto, sei in diretta. Sei in diretta, voglio dirti una... in diretta? Sto messo in diretta. Ma non finiti alle 9, no? No, appunto, sono le 20:44. Scusami, Alberto, voglio... Un saluto a tutti i telespettatori. No, radio ascoltatori, non ti emozionare. Voglio capire una cosa, solo... Mi stai emozionando. Ma solo una piccola cosa, Albertina Dandolo. Tu lo hai mai praticato il pissing? Singot l'hanno praticato, tu che sei una... Sì, io l'ho praticato in maniera attiva a Barcellona, sto facendo pipì davanti a un muretto vicino alla Rambla del Ravalva, sì. Si avvicina un ragazzo molto prestante, sì. Si mette vicino a me, si abbassa e mi dice por favor, chiero pipì, e io perché lo dovevo far dispiacere? Mi gira e gli pisce in bocca. Ma no, scusa, ho capito. Ma perché non l'hai mai praticato? È pieno di sali minerali. Sì, no, ma adesso va benissimo questo racconto, ma per esempio su di te non è mai stato praticato il pissing su di te? No, perché non lo trovo molto erotico, devo dire la verità. Preferisco altre pratiche, anche benissimo. Molto più estreme. Grazie Alberto, molto gentile. Grazie di questo contributo. Prego, grazie, prego, grazie. Ho il gatto. Allora, capito Maddalena, questo era il contributo prezioso del signor Alberto Dandolo, che è conosciuto nella comunità omosessuale, comunità frocia milanese. Però Maurizio stava facendo una proposta molto... È liberatorio, cioè Maddalena, davvero, è liberatorio, apre la mente. Cosa apre la mente? Fare il pissing apre la mente. È una forma di... Ma nessuno ha detto che lo esclude, infatti io ho detto... Non l'ha escluso. Dobbiamo essere intimità, aperti. Capito? Comunque ragazzi, è molto chiara la cosa. Il fidanzato di Maddalena... fa parte del nostro club, Maurizio. Mi sembra abbastanza chiaro, no? Assolutamente, è un ragazzo che evidentemente è puttanata, la realtà che andrebbe soddisfatta. Andrebbe soddisfatta, cioè, secondo me andrebbe soddisfatta. Assolutamente. Sì, assolutamente. È un'ingiustizia alla quale bisogna mettere rimedio, assolutamente. Sì. Ciao Maddalena, Maurizio, prova. Ciao Maddalena, ciao. Ciao ragazzi, ciao Maddalena, sei bellissima. Ciao. Like a fool, I'm fed. Menagramo d'un menagramo. In a web, I'm trapped and calling into a thousand million pieces. I will Carlo da Fermo, vai Carlo, dimmi. Carlo, dimmi. Devo fare una protesta formale. Non ho capito, Carlo. Una protesta formale. Fai sta protesta formale, che te devo dire? Da ieri che parlate del ragazzo arrostito, ma non avete più argomenti? Non ho capito, a parte che non è vero che parliamo solo del gatto arrostito. Ma fino a 10 minuti fa è intervenuto uno, ma che date voi a sta gente? Ma che sei ubriaco? Sono una buona forchetta a pensare che questo gatto arrostito mi fa schifo, no? E che vuoi da me, scusa, che se sei ubriaco... Ma basta, no? Se non sei avete più argomenti, ma se non ho capito. Scusa, a parte il fatto... Imparate la vostra concorrenza, no? Se sei ubriaco... Non sono ubriaco, sto un cazzato nero. Sei totalmente ubriaco. Sei totalmente ubriaco. Sei totalmente ubriaco. Benissimo, sei totalmente ubriaco. Sei totalmente ubriaco. Sono ubriaco, che devo fare gira ancora. Ma figuriamoci, si sente dalla voce che sei ubriaco. Imparate dai vostri colleghi a fare trasmissioni. Ma chi? I vostri colleghi chi? Ma di che stai parlando? La concorrenza. Ma non ho capito, Carlo. Carlo, ma che vuoi? Non ho capito che vuoi. Ma voglio che avete rotto i coglioni, perché sono un cliente affezionato. E che perché? E ogni volta che parlate di certi argomenti fate schifo. Ma di che cosa? Tipo questo gatto arrostito, è da ieri sera che parlate di questo gatto arrostito. E allora? Ma chi cazzo interessa questo gatto arrostito? Beh, un tema d'attualità, un extracomunitario che arrostito... Ma se ne parla una volta, una notizia, ma è due trasmissioni di seguito, no? Evidentemente non c'avete più argomenti. Sì, purtroppo siamo alla frutta, che devi fare? Purtroppo ti dispiace. Ti dispiace, tu sei ubriaco totale, ma insomma... Ma che so ubriaco? Totale. La verità fa male. Ma vai a fare in culo, Carlo. Alberto da Varese. Ma vai a fare in culo, va. Tu e tutti voi. Ma vai a cagare, imbecille. Vai a cagare. Ma chi quella se ne fotte? Ma quello di notte va. Alberto da Varese. Ciao. Buongiorno da pecora. Ma vai a fare in culo, va. Alberto da Varese. Ciao. Dimmi, Alberto. Dimmi. Ciao Cruciani. Dimmi. Senti, volevo parlare di un altro argomento, però volevo fare una testimonianza. Io lavoro a Malpensa, sì. E ho lavorato a gennaio e a febbraio, quando ancora il Covid era in auge, ok? Sì. Siamo 100 che lavoriamo là, anzi 200, non se ne è contagiato uno. E che giravano i cinesi, arrivavano e noleggiavano le macchine. Ma cosa c'entra? Non ce n'è non stato ho capito. Uno. C'entra nel fatto che dicono che insomma in Lombardia c'è un focolaio, c'è ancora... Vabbè, Alberto, ma lasciamo perdere adesso, chi se ne frega di queste cose qua? Di che volevi parlare? Solo di questo? Non ho capito. No, volevo mandare a fanculo il legionario francese, sì, che non si rende conto, sì, di quello che ha fatto la Francia, sia quando... Insomma, in Indocina, questo si è Alberto, tornato una vietnamita. Alberto, di non cosa stai parlando? Nulla. Allora niente, zero. È stato bellissimo. Zero, cioè mi ha tirato fuori due cose di cui non me ne può fregare di meno. Zero, va bene, totale. È cruciale, zero. Ma mica parlare con te è bello anche zero, per questo. Zero, assoluto. Ma uno. Va bene così, cruciale. Zero. Marco, va bene così. Marco da Milano, fammi sentire Marco. Sentiamo Marco da Milano. Fermi tutti, italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Chi ti ha pagato, cazzo? Dillo, sei il coglione.